Quello che mi dici ridendo mi ferisce nel più profondo. Quello che mi dici ridendo mi ha spedito dritto all'inferno. A volte le parole sono coltelli che tagliano gli occhi. Forse mi fa ancora più male, perché so che a parlare è il tuo cuore. Niki, niki, niki, niki, è difficile ascoltare, specie le persone che ami, specie le persone a cui vuoi bene, specie le persone che ami, specie le persone a cui vuoi bene. Quello che mi dici ridendo, forse non l'avresti mai detto. Abbiamo tutti una lama nascosta dentro al petto. Una voglia di vedere crescere il meglio del meglio nell'altro, anche se a volte si ferisce e si rischia il peggio del peggio. Niki, niki, niki, niki, è difficile ascoltare, specie le persone che ami, specie le persone a cui vuoi bene, specie le persone che ami, specie le persone a cui vuoi bene. Ci sono cose che non si dovrebbero dire, altre che non si dovrebbero fare. Ci sono cose da non fare, altre che si dovrebbero dire. A volte le parole sono coltelli che tagliano gli occhi. Forse mi fa ancora più male, perché so che a parlare è il tuo cuore. Niki, niki, niki, niki, è difficile ascoltare, specie le persone che ami, specie le persone a cui vuoi bene, specie le persone che ami, specie le persone a cui vuoi bene.